La bella estate. Racconti dell'Italia in vacanza. Di Fabrizio Intonti e Tommaso Labranca. Lick it, lick it, right it, forward jump, back jump, one, two, three. Si avvicina sempre più il giorno in cui io vi svelerò chi canta questa nostra magica sigla che sentite tutti i giorni verso le 16:07 qui da Radio 24 con Tommaso Labranca, che sono io, che vi parla delle vacanze che però fate voi, io sono sempre qui in città. Oggi dovremo parlare di un argomento molto appetitoso, il cibo, però prima facciamo una piccola eccezione. Com'è bella l'avventura, un cavallo e una chitarra. Ecco qua, l'avventura. Oggi è sciopero dei mezzi in molte città. Magari chi sta al mare, che so, sulla spiaggia a Ventotene, non lo sa che qui in città sta succedendo di tutto. E io mi chiedo, ma cosa andate a fare in Nepal? In Patagonia sulle tracce di Chatwin? Perché dovete invidiare Indiana Jones? La vera avventura, ragazzi, è qui. Stamattina sono uscito di casa e non sapevo se sarei mai arrivato qua. Ho usato l'auto e ho detto, vabbè, infrango i miei precetti ecologici, non prendo i mezzi, vado in auto fino alla radio, niente da fare. 10 minuti per fare 30 metri, ho lasciato l'auto e ho dato la caccia al primo mezzo pubblico. Ho preso il primo che passava, non ho visto neanche il numero, poi ne ho visto passare un altro, sono sceso, l'ho preso al volo e per fortuna avevo il tablet, perché così potevo vedere dove stavo andando. E intanto si creavano questi capannelli, sapete, come gli esploratori. Uno diceva, io ho visto un 15 che passava, no, io ho visto 3,60 in fila, erano tutte vuote, diceva un altro, io ho preso un 24 con le unghie, ho lottato per salire. Insomma, alla fine, tra un sentiero degli elefanti, che poi sarebbe appunto la circonvallazione, e una carovana di Tuareg, che eravamo noi e cercavamo un mezzo pubblico, sono finalmente arrivato qui in radio. Ah, com'è bella l'avventura! Ed eccoci qui tuffati dentro il nostro cestino da picnic. Questo qua è Apollo Nick Forte, forse non lo conoscete, ma chi conosce Woody Allen ricorderà Broadway Dancing Stars, un bellissimo film, si chiamava così, mi sono perso un po' il titolo, in cui appunto c'era questo cantante di tono americano che nella canzone sciorina i soliti luoghi comuni sul cibo e gli italiani. Ma sono veramente luoghi comuni o no? All'800 24 00 24, oggi voglio sapere cosa mangiate quando andate in spiaggia, cosa mangiate quando fate un picnic, cosa vorreste mangiare quando andate in spiaggia e cosa vorreste mangiare quando fate un picnic? Perché tra il volere mangiare qualcosa o il voler non mangiare qualcosa e quello che fate poi effettivamente c'è il mare in mezzo. Stamattina sulla nostra pagina Facebook, che vi invito sempre a visitare, La Bella Estate, ho parlato di quei bei cestini da picnic che vediamo nei negozi di Vimini, con dentro tutta la fodera, tutta di quella stoffa, quadrettini bianca e rossa, piccolissimi. Cosa ci metti dentro? Niente, nulla. Cosa puoi metterci? Un panino? Ma nessuno mangia i panini in spiaggia, tutti vanno lì con teglie di timballi, batteria di polli arrosto, angurie, peso medio una tonnellata, poi tutti piangono sulla bilancia e ordinano i dimagranti in televisione. E vabbè, comunque uno dei luoghi comuni che volevo sfattare oggi è appunto italiani e cibo, ma un altro è anche si mangiava di più prima, negli anni 60 o negli anni 50, come vi fa sentire questa clip. Ma il cocombero è sparito? Non ti preoccupare, l'ho messo al sicuro io. Dove? Dentro al comodino. Sta fermo, la roba non si mangia! Allora che avete cucinato qua? L'avevo cucinata per mangiarla a mare, ma che sei affamato te? Ma stamattina mica abbiamo fatto colazione. Già, se mettevamo a far caffè e latte per via tua, se mettevamo. Guarda quanto è lento quel ragazzo. E già si aspetto te, da stamattina che sta frigge. Ho fatto una scolatura di fritto, siamo quattro persone, poi a mare vi è fame, sa, oh. Io poi tutti questi preparativi non li capisco, le melanzane, le fettine, il cocombero. E poi per andare a Fiumicino. Perché con le melanzane, le fettine e il cocombero dove si va? A Viareggio? Ma che c'entra? Una, due, tre, quattro, 5, 6 bastano. Adesso tu friggi un po' di melanzane e poi due zucchine, io mi vado a dare una lavata. Ma come? Andiamo al mare a fare il bagno e tu lo fai prima qua? Apposta, al mare il bagno non si fa mica con i calzini, cara. Attenta, i peperoni. Era il 1951, la famiglia Passaguay, avrete riconosciuto almeno quelli un po' più anziani. Aldo Fabrizi, e si sentiva anche dietro Carlo Delle Piane, preparavano un picnic per andare al mare e come sentite era una preparazione storica, enorme, lunga, infinita, una cosa terrificante. Ma come si... cosa si deve mangiare? Come ci si deve comportare quando si va a fare un picnic? Noi dovremmo chiederlo a voi all'800 24 00 24. Mi raccomando, chiamatemi e dite cosa mettete nel vostro cestino da picnic. Parlatemi anche della mangiata più grossa che avete fatto in esterni, naturalmente, magari, che so, su un prato, non necessariamente sulla spiaggia, anche se l'idea è sempre quella del picnic sulla spiaggia. Quindi voglio sapere da voi queste cose. Avremo poi anche degli ospiti che ci parleranno e con cui approfondiremo il tema. Per cui, niente, state lì e aspettate. Voglio farvi sentire nel frattempo una delle più brutte canzoni che penso siano mai state scritte, ma che ci sono molto utili e che parlano appunto di una preparazione per un picnic. È un pezzo di Renato Zero. Affittiamoci un canotto e prendiamo il largo verso il mare blu. Oh, cara, remo un po' io, remi un po' tu. Hai portato il gorgonzola, le mentalle uova, cioccolata e tè. Eccola qua, ecco qua. Quello che Renato Zero e la sua improbabile compagnia si portano dietro nel canotto. Io, scusate se ho detto che è un pezzo più brutto, ma in realtà anche i fan di Renato Zero, i sorcini, gli hanno rimandato il disco a casa, questo lo so per certo. Bene, parliamo subito allora di cibo con qualcuno che di cibo ne ha fatto una professione. Abbiamo uno chef al telefono, Gianluca Nosari, pronto? Pronto. Buongiorno, buon sì. Pomeriggio. Buon pomeriggio anche a te. Hai finito di cucinare, il pranzo è finito, la cena è ancora lontana, quindi sei libero. Mi sto liberando ora, sto facendo dei tortelli con spigola, mandorla e cipolla fondente, ma, una specialità. Ma è complicatissimo, è difficile. Non ti sento, scusami. Ho detto, è un pranzo, è una preparazione difficilissima da fare. È abbastanza difficile per il fatto che devi farti la pasta all'uovo e devi saper chiudere dei tortelli, insomma, il metodo tradizionale, quello emiliano. E insomma dentro c'è una spigola fatta al vapore, poi dopo ovviamente va condita con della santoreggia, che è un'erba aromatica, diciamo che dà il gusto, che richiama un pochino l'origano e il timo misto, e la croccantezza con questa granella di mandorla tostata al forno per qualche attimo, unito tutto, tenuto assieme del parmigiano e dell'albume. Ripeto, è difficilissimo. Comunque non è una pietanza da portare in spiaggia, in un picnic, non no, trovi? Infatti, ti menzionavo quello che stavo facendo pochi attimi fa quando la produzione mi ha chiamato. Ma tu sei anche il proprietario di un locale, gestisci un locale? Sì, sì. Il mio ristorante è il ristorante Nosari, sito all'interno, ubicato all'interno di uno stabilimento balneare che si chiama il Saint-Tropez di Fregene. Ah, il Saint-Tropez, bello questo contrasto, Saint-Tropez a Fregene. Quindi tu non consigli alle persone di fare i picnic, tu dici venite, mangiate, consumate nei locali. Se è possibile, con un sorriso chiedo ai miei spiaggianti di mangiare le mie preparazioni, quindi io do un servizio anche di tavola calda, e a tal proposito magari qualche suggerimento anche a qualche amico e collega su quello che si può preparare nella tavola calda in un menù comunque territoriale o mediterraneo. In questo momento a me piace mandare molto in tavola calda una parmigiana di rombo, quindi è un piatto unico se vogliamo. Parmigiana quella con le melanzane più il rombo? Sì, è una melanzana alla parmigiana di rombo con il rombo, quindi sì. Le melanzane più pomodoro, più mozzarella, più basilico ovviamente, che non può mancare, e ovviamente viene unito anche della dadolata di rombo che è spadellata con un pochino di pomodorino ciliegino all'interno, aggiustata di sale e un pochino di pinoli, quindi dando anche un tono mediterraneo e se è possibile magari anche siciliano. Anche questa qua non è facilissima. Anche questa non è facilissima. Ma Gianluca, se tu dovessi dare tu dei consigli per chi deve fare un picnic, una colazione al sacco in esterno, sì. Dacci due consigli per poter mangiare in maniera semplice e non troppo complessa se dobbiamo uscire. La cosa più difficile è pensare in modo semplice per un cuoco che vuol sempre, non dico stupire i commensali, ma che vuol somministrare un qualche cosa di nuovo, ecco. E ragionando in maniera semplice, al sacco si possono portare magari dei risotti che si mantengono bene, fatto magari con il riso giallo con il parboiled. Sì. Quindi mi viene in mente la classica insalata di riso, perché si sta ritornando ora, sempre all'insegna della semplicità, si sta ritornando un po' indietro con il gusto e con il tempo, perché siamo alla ricerca, questa è nella personalità, nella mentalità di noi tutti, oramai sto constatando, che si sta ricercando i sapori vecchi o comunque delle vecchie ricette riproposte con cromaticità moderna, quindi bellottando un pochino, impreziosendo le vecchie ricette. Ad esempio un'insalata di riso fatta con qualche gamberetto magari lesso dentro sicuramente arricchisce. C'è chi utilizza anziché il riso il farro, quindi è una buona idea anche questa. Gianluca, ecco, tu sei uno chef noto anche perché appari spesso in TV. Sì. Ecco, non credi che a volte questi piatti vengano un po' complicati proprio per motivi televisivi, perché devono apparire bene in televisione? Questo sicuramente lo sottolineo, infatti la mia pecuniarità è quella di essere un cuoco che semplifica tutto e traduce le cose difficili e le racconto in modo semplice e comprensibili da parte di un pubblico che, mi rendo conto, non è professionista, non è anche profani, quindi debbo essere attendibile, ma senza per forza di cosa fare le capriole a terra e stupire la gente, ecco, con magari aggettivi o sostantivi incomprensibili. Perfetto, io perfetto. Chi mi segue nel canale di Alice della sitcom TV sa che nelle mie trasmissioni, partendo da Casa Alice, Buongiorno in Cucina, i menù di Gianluca, oggi il dolce e salato, sono uno di quei cuochi che le cose difficili le fa diventare molto semplici. Come per riagganciarmi, certo, a quello che dicevo prima, quello che dici può di essere prima. Anche un'insalata di riso arricchita e con qualche sapore nuovo, ecco, all'interno mettendoci qualche gamberetto, ma di quelli prelessati, non di quelli freschissimi, perché un'altra mia attenzione nei confronti del pubblico è quello di consigliare ricette che non costino un'esagerazione, questo è anche importante, economico che infatti si vive. Senti, allora Gianluca, le famiglie possono spendere sempre meno. Beh, grazie per tutti questi consigli e per quello che fai sia come cuoco nel tuo locale sia anche su Alice TV. Grazie tanto per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie. Ciao Gianluca. Bene, io non so cucinare, ve lo dico subito, forse ve l'ho già detto, vengo da una famiglia dove c'era mia nonna che preparava i piatti radioattivi, per cui ho bisogno di voi. 800 24 00 24, cosa mangiate quando andate a fare i picnic o sulla spiaggia? E ce n'è già qualcuno, ecco, c'è Guerino da Milano, pronto? Sì, pronto, buonasera. Ehi Guerino, allora, cosa c'è nel tuo cestino da picnic? Allora, io intanto le mie esperienze legate alla spiaggia sono un'estate di tanti anni fa in Sardegna, dove, ahimè, sulla spiaggia bisogna portarsi roba da mangiare perché non c'è molta scelta di bar intorno, per cui assolutamente il piatto più gettonato era l'insalata di riso. Ah, come diceva Gianluca poco fa, il nostro chef, guarda che certo, caso. Accompagnata sempre da un panino, poi c'è l'amica che vuole stare un po' più leggera e opta per la bresaola, e invece chi come me che ha una mole un po' più sostenuta magari opta per una bella mozzarella con un po' più di grasso nel panino. Diciamo che in questo momento con me ho il massimo di quello che si può mangiare in spiaggia, cioè? Sono appena andato da un amico a comprare la mozzarella di bufala e secondo me un panino con la mozzarella di bufala e un po' di pomodoro con dell'olio extravergine buono rende la spiaggia assolutamente il posto più bello dove stare. Vabbè, ma tu sei a Milano o sei in spiaggia adesso? No, adesso purtroppo sono a Milano, però ad esempio mi ricordo un picnic a Central Park, anche questo di circa 23 anni fa, organizzato da due amiche di scuola turche. Con la mozzarella di bufala? No. Ah beh, temevo. Non ero ancora così evoluto. Temevo fosse andato fino a Central Park per mangiare la mozzarella di bufala. No, rapidamente cosa hai mangiato a Central Park? Niente, loro hanno preparato questo simpatico picnic turco con delle polpettine, con dei dolmades che sono quelle foglie di vite ripiene di riso. Ma ti è piaciuto o no? Abbondante caffè turco che poi è servito a leggere il futuro, come sapete, nei fondi. Sì, ma ti è piaciuto? Girando la tazza. Ti è piaciuto il picnic turco? Sì, molto carino, devo dire. Poi loro simpaticissime, amiche di scuola, erano state veramente, avevano preparato finora, guarda, finora è il picnic più originale che abbiamo sentito, ma ne abbiamo altri da sentire, sempre da Milano. C'è Danilo, per esempio. Danilo? Pronto? Ciao Danilo. Allora, cos'è? Io volevo raccontare, anzi volevo fare un appello a tutti. Sentiamo. Non tutti siamo dei carnivori, ci sono anche delle persone che sono vegetariane. Sì. Io ogni volta che vado a un picnic sono costretto a mangiare soltanto l'insalata o, che ne so, i peperoni alla griglia, perché nella mentalità di tutti essere essere vegetariani consiste anche nel mangiare il pesce, invece no. Beh, però dovresti essere contento, sei vegetariano, no, ti mangi i peperoni. Sono molto felice di questo. No, però... dico, visto che ti danno i peperoni e l'insalata, dovresti essere già felice, no? Eh sì, ma però c'ho sempre una fame, perché lei dice che è un qualcosa di incredibile. Meglio, allora, meglio star leggeri, Danilo, guarda, meglio star leggeri, perché sennò fai come il signore di prima che mangiava le mozzarelle di bufala a Central Park Tour, che non ha avuto un po' di confusione mentale. Grazie anche a Danilo. C'è Alessandro a Livorno, siete in tantissimi, per cui sto andando un po' veloce. Alessandro. Ciao, grazie a tutti, buongiorno. Ciao, buongiorno, che avventura o disavventura mi racconti? Cosa c'è nel tuo cestino? Allora, io ho passato circa almeno 20 anni della mia vita con i miei genitori, a cui voglio molto bene, ma due radical chic pazzi, furiosi, dagli genitori, anni 70. Genitori radical chic, benissimo. Sì, sì, sì. Mi sono fatto un'infanzia e un'adolescenza super salutista a base di soia, quando ancora la mangiava quasi nessuno, gelato alla soia... non erano per forza vegetariani, ma venivano sbeffeggiati i nostri vicini di picnic continuamente da discorsi denigratori da parte dei miei su guarda lì quanta roba si portano. Ah, beh, certo, buzzurri. Loro mangiano sì, buzzurri, tamari e così via. Ma oggi tu cosa fai? Oggi... Io li invidiavo tantissimo i buzzurri, perché si godevano la vita. Certo, ma Alessandro, dopo, appena uscito, sono diventato sì, oggi un buon mangiatore. Giri con gli zamponi in tasca, cos'è che fai oggi? Ti sei vendicato? No, ma con i salami toscani sì. Ah, ecco. Allora, buona vendetta con i salami toscani. Grazie Alessandro. Grazie a voi. Ciao. Bene, abbiamo già sentito un po' di piatti estivi. In realtà ho scoperto, sempre sulla nostra pagina Facebook La Bella Estate, che esiste un sito che si chiama panbagnato.com, dove stanno cercando di capire quali sono i veri piatti estivi. Ve ne leggo alcuni, perché faranno poi una classifica. Che so, pesce alla griglia, insalata greca, prosciutto e melone, grigliata. C'è addirittura chi ha proposto riso venere con le mazzancolle e la tartare di salmone, che sembra il titolo di un film della Vermeuler. Manca il mio piatto estivo preferito. Carne in scatola mangiata direttamente dalla scatola sul lavandino usando un dito. Ma a proposito di grigliate, ehi, come va la pesca miracolosa? Bene, bene, ne abbiamo già presi 8, tutti dello stesso tipo, belli grassi. No, 9. Mio, che uno! Sono topi di fogna. Sì, ma scusi, ragioniere, ma io avevo avuto il mezzo sospetto che... Sei sempre il solito maiale, mandato a pescare al largo, zozzoni! Ma sì, prendete la mia barca, no? Facciamo una cosa, butti via questi topi. Ma che topi e topi? Per favore, ragioniere Fantozzi, non ci si metta anche lei. Esiste il pesce cane, il pesce gatto e il pesce ratto. Possono piacere o non piacere, e su questo io non discuto. Ad ogni modo, a me la grigliata di pesce ratto piace da morire. Ad ogni modo, lei lo ha detto, buttiamo a mare questa grazia di Dio. A voi piace la grigliata di pesce ratto? 800 24 00 24, un bellissimo momento da un film di Fantozzi, un po' copiato da Ultimo Tango a Parigi, quando Marlon Brando fingeva di mangiare il topo e Maria Schneider correva via schifata. Vabbè, non parliamo delle copie, sentiamo invece che ci dice Pietro dalla provincia di Trapani. Pronto? Pronto? Pietro, ciao! Ciao, ciao a tutti! Ma cosa porti al mare? Ma io di solito con la famiglia porto pane conciato. Pane? Conciato. E cosa vuol dire? Spiega, perché sai, qui siamo un po' così, non conosciamo le lingue. E in pratica è pane condito. Sì? E lo si può condire con tutto e di più. Dimmi una cosa, Pietro, ma tu non sei di Trapani? No, io mi sono trasferito da 5 anni. Ah, ecco, sentivo l'accento che non era molto della zona. Però spiegacelo, no, il pane... No, però mia moglie è di Trapani. E fa il pane conciato? Sì, il pane conciato in pratica è tu, quando vai dal fornaio, compri il pane caldo, lo tagli, sì, togli la mollica che si trova all'interno, poi dopodiché lo condisci con sale, con olio, ci puoi mettere prosciutto, formaggio, acciughe, pomodoro, origano. Cioè, qualunque cosa, insomma. Qualunque cosa, lo chiudi, lo schiacci bene e dopodiché lo tagli a fette. E lo porti in spiaggia dentro il tuo sacchetto, dentro il tuo... Ma non cade tutto questo contenuto, è un po' l'effetto kebab. Io evito i kebab perché mi cade tutto da ogni parte. No, no. Ma non ha l'effetto kebab, perché kebab è a base di carne, di spezie. No, no, dico, sai che ti cade tutto dal kebab, perché è talmente pieno, no, che non riesci a tenerlo. Schiacciato bene non cade. Ma tu di dove sei? La tua origine qual è? Scusa se ti... Io sono piemontese di origine. E non senti nostalgia dei cibi piemontesi da spiaggia? Che non so, non ci sono mai spiagge in Piemonte, però. No, non ci sono spiagge in Piemonte. No, sono di origine siciliana, però sono nato nella zona del Piemonte. E, diciamo che no, non sento nostalgia, perché sto tanto bene qua, al caldo e al mare. Ma guarda, quindi non sei lì, magari sei sulla spiaggia a Trapani, uno dice ma ho una nostalgia della bagna cauda, no, niente proprio. No. Ma no, perché ogni tanto vado a trovare degli amici e farmi una bagna cauda. Ah, ecco, vedi, la bagna cauda viene sempre fuori, grazie Pietro. Prego, ciao. Beh, stanno mangiando di tutto, però io volevo veramente sentire quei vecchi picnic con le teglie, con appunto i tacchini ripieni, con qualunque cosa. Nella seconda parte della bella estate di oggi vi voglio belli pronti, belli unti, belli grassi. 800 24 0024. Adesso c'è la borsa. La bella estate. Rieccoci qua col nostro cestino da picnic. Avevo detto, volevo sfatare un mito, cioè si diceva negli anni 50, come abbiamo sentito nella famiglia Passaguai con Fabrizi, si mangiava molto di più durante i picnic. Oggi secondo me si mangia lo stesso tanto. Invece le telefonate ricevute finora, abbiamo parlato di cibi macrobiotici, di soia, di pane, ma cose abbastanza piccole, insalate, mozzarelle. Vabbè, cerchiamo di sfatare il secondo mito, che sono gli italiani a mangiare di più, come diceva appunto la canzone Agita, quella tratta dal film di Woody Allen. Allora vi ho messo questo pezzo di Nino Ferrer in francese, Le Cornichons, che sono i cetriolini sul sottaceto. In realtà poi lui racconta tutto questo armamentario di cibo che si sono portati per fare un picnic. Poi la canzone fu fatta anche in italiano, si chiamava Il Baccalà. Quindi anche all'estero, anche in Francia, mangiano un sacco quando vanno a fare i picnic. Però si deve mangiare tanto o si deve mangiare poco? Cosa ne pensate? E mangiate tanto o mangiate poco quando siete fuori? 800 24 00 24. C'è anche chi mangia poco perché decide di mangiare poco, decide di farsi male, come in un celebre reality show. Ascoltate. Abbiamo un kit da picnic che comprende un succo di limone e tante di queste fette biscottate con marmellata. Cosa farete, cari naufraghi? Io c'ero. Siete in tre. I naufraghi dell'Isola dei Famosi ricevono un kit da picnic con dentro del succo di limone e delle fette biscottate. E loro sono felici perché comunque non mangiano, ma comunque sono in televisione ed è quello l'importante. Le persone chic non mangiano. Questo almeno è quanto pensa una delle più grandi filosofe italiane del Novecento, che io sto studiando da tempo, vorrei anche laurearmi su di lei prima o poi, Vanna Marchi. Come state? Bene? Io sto benissimo, grazie. Si fa per dire che sto benissimo, perché in realtà non sto veramente molto bene. Cioè, devo dire che ho molta fame, molto appetito, quindi non vedo l'ora di terminare la diretta, perché voglio andarmi a mangiare un bel piatto di spaghetti grandi così. Poi magari mi mangerò anche qualche altra cosetta. E io quando non mangio, quando ho fame, divento cattivina, eh? Prima eravamo con degli amici, io e Stefania, abbiamo fatto un giro per Milano, dico, guarda, vorrei bermi un buon caffè, no? Ci siamo fermati dopo lunghe peripezie in un bellissimo bar, c'era ogni ben di Dio da mangiare, ma siccome nessuno mangiava, delle persone che erano con me, mi sono vergognata a mangiare, di conseguenza non ho mangiato e li avrei sparati in testa tutti io, perché avevo una fame terribile, però siccome nessuno mangiava, sai, vabbè, facevano le persone chic, raffinate, facevano finta di non mangiare. Le persone chic fanno finta di non mangiare, diceva Anna Marchi, che passa i modi spicci e decide di sparare in testa. Allora io ho deciso di chiamare Serena Nardo, che è un medico nutrizionista, e domandarle una cosa. Serena, ci sei prima di tutto? Sì, ci sono. Ciao Tommaso. Ciao Serena. Allora Serena, le persone chic mangiano poco, fanno bene o fanno male? Ma no, ma fanno male, chicken no, è sbagliato mangiare poco, soprattutto in particolare nel periodo delle vacanze, perché poi il mangiare poco è un'illusione, in realtà si crede di mangiare poco, si mangia male, quindi quelli che pensano di saltare il pranzo perché sono in spiaggia, poi magari in realtà pasteggiano tutto il pomeriggio con gelati, aperitivi, noccioline, patatine, poi arrivano la sera con una fame da matti e chiaramente poi si scatenano, quindi quando poi a settembre si vedono i risultati del post vacanze, questo mangiare poco non corrisponde poi al risultato atteso. Quindi poi vengono da te, certo, vengono da te, esatto, dicono eppure non ho mangiato. Esatto, come fatto esattamente a ingrassare? Così. Ecco, e allora cominciano poi tutta una serie di ragioni, di spiegazioni, di ipotesi da parte dei pazienti stessi che ti raccontano che magari sono andati al mare, hanno mangiato solo pesce e in realtà però poi viene fuori che il pesce era fritto, che faceva parte di un qualche primo piatto particolarmente elaborato dove il pesce galleggia invece nell'acqua, nell'olio, quindi insomma il discorso non è così lineare come sembra. Quindi l'errore principale che fanno perché io non vado al mare, ma che fanno quando vanno al mare è mangiare male, cioè in maniera disequilibrata. Il mangiare male, sì, esattamente, il mangiare male, quindi ecco, il saltare il pranzo è proprio l'errore base più comune, perché il paziente, insomma le persone pensano in questo modo poi di potersi rifare la sera, magari a cena, e senza che questo comporti un danno, e non è così assolutamente, perché poi la sera in teoria smaltiamo anche meno quello che mangiamo, quindi in termini anche semplicemente biochimici è un errore, e lo è poi soprattutto in vacanza, dove magari ci si riposa, ci certo si muove magari. Ma prima di andare in vacanza vengono da te e dicono cosa devo fare? Ah sì, assolutamente, quindi chiedono i consigli magari su come comportarsi, quindi avanzano magari loro le ipotesi, anche quelle più rigide magari, del tipo per esempio allora potrei saltare, bevo solo acqua, quindi cose diciamo dall'integralista puro, sì, che vuole solo bere, a quello che magari ti dice beh però potrei portarmi la pasta da casa, che magari poi alla fine è anche meglio rispetto magari al chioschetto più o meno accurato nel prodotto, nella ricetta, nelle quantità di grassi, quindi insomma questo tipo di ipotesi c'è prima delle vacanze, però ripeto, poi a settembre spesso i risultati di tutta questa preparazione non ci sono, non quindi ci sono che più. Succede qualcosa durante l'estate che non va bene. Senti, insomma, per concludere Serena, birra e calippo fanno male? Birra e calippo sono esattamente lo specchio di quello che succede oggi, in cui si passa appunto da un pasto principale composto proprio da tutte quelle che sono le macro categorie alimentari a una soluzione rapida, magari più fresca apparentemente, che però assolutamente non è un pasto dal punto di vista nutrizionale corretto, quindi diciamo che non fanno bene, ecco, questo è. Va bene, le due ragazzette sbagliavano, grazie, esatto. Grazie a Serena Nardo per il suo consiglio. Ciao Serena, ciao. Ecco, abbiamo saputo come bisogna mangiare dal punto di vista nutrizionale, ma come bisogna mangiare dal punto di vista del bon ton ce lo dice la nostra solita amica Barbara Ronchi della Rocca, intervistata da Fabrizio Intonti. Innanzitutto bisognerebbe evitare di invadere gli spazi altrui, quindi la famiglia che mangia sotto l'ombrellone deve rigorosamente stare sotto il proprio ombrellone e non cominciare a invadere l'ombrellone del vicino. Poi va benissimo anche la frittata di maccheroni, che anzi è sana, è tipica della nostra infanzia e della dieta mediterranea. Il problema sono gli odori e gli untumi, cioè tutto si può mangiare, basta mangiarlo con garbo, cioè senza ridurre il nostro pezzo di spiaggia a uno sciatto bivacco con briciole e schifezze, e ricordandosi che il cibo ha un odore. Voi direte è un profumo, sì, mentre si è affamati è un profumo, poi dopo diventa una puzza. Allora, proprio per evitare che l'odore ristagni, beh, evitiamo di portarci peperoni con la bagna cauda in spiaggia. Signora mia, evitiamo di portarci i peperoni con la bagna cauda in spiaggia. Ma voi li portate i peperoni con la bagna cauda? 800 24 00 24. Nicola da Napoli, per esempio. Pronto? Pronto, ciao. Nicola, ma quando tu fai il picnic, riduci alla spiaggia a uno sciatto bivacco oppure mantieni sempre il tuo aplomb? No, la plomb no, diciamo che sono più verso la frittata di maccheroni. Ma la Barbara Ronchi della Rocca ha detto che va bene perché è un pranzo naturale, non strano, sì. Quindi tu vai in spiaggia va con la frittata di maccheroni. fritta di macaroni, oppure il panino con la mortadella, che non è per niente salutare in spiaggia. Ma no, oh, non è vero. Ma sai che, ma sai che nei vernissaggi, le aperture, le inaugurazioni di mostre più chic non c'è il caviale, c'è la mortadella. C'è la mortadella. Allora quindi, vuol dire che siamo diventati chic. Che ti devo dire? Siamo diventati chic, assolutamente. Tu ricordi, Nicola, ricordi un picnic particolarmente pesante che hai fatto in vita tua? Sì, sì, io siamo cinque fratelli, sì, andammo al lago di Falciano, che è qua vicino Mondragone, insomma, nel Casertano, sì, e con le mogli e i nipotini, però portammo qualcosa come, non voglio esagerare, 30-40 kg di tra carne, salsicce, tutto il resto, ci mangiamo tutto, ma vino, questo qua. Siete rimasti, là, siete rimasti là un mese, quanto tempo? Siamo rimasti là un pomeriggio. Ah, un pomeriggio! Però. Non è bastato quel pomeriggio per distruggere tutto. Poi siamo tutti un po' piccolini di taglia, cioè grossi purtroppo. Vabbè, vuol dire che siete così allegri, mangiate, vi siete divertiti? Sì, certamente. E allora quello è l'importante, non preoccupatevi. Abbiamo giocato 5 minuti a pallone, ma non ce 5 minuti poi dopo crollati totalmente. Vabbè, allora buon picnic, se ne farei ancora un altro. Va bene. Ciao, okay, Nicola, ciao. E adesso risaliamo da Napoli a Milano con Rino. Pronto, Rino? Sì, ciao. Ciao, tangenziale anche tu? È autostrada. Autostrada, vabbè, siamo lì. Allora, i tuoi picnic come sono? No, i picnic sono molto rari. Ah. Nel senso che li faccio solo al mare, però... Quello che vogliamo sapere, come sono i tuoi picnic al mare? Mi piace stupire. Ah, stupire. Ho fatto per moglie e tutta la famiglia, le figlie, un picnic a base di spiedini, ma freddi. Nel senso di fare prosciutto e melone infilato sullo spiedino, macedonia sullo spiedino, caprese sullo spiedino. Ma è una scelta chic, veramente, faresti felice Barbara Ronchi della Rock. Ma hai passato la notte con questi spiedini infilzando tutto? No, no, si è fatto molto presto e alla sera si sono portati in spiaggia, bella serata, gli spiedini. Ah, che meraviglia, poi alla fine avete ripreso gli spiedini vuoti e li avete portati a casa? Sicuramente. Hai intenzione di farne un altro prossimamente? Quest'anno vado in montagna, vediamo di farlo con i funghi. Ah, a furia di spiedini di funghi. Pensate, un intero menù composto esclusivamente da funghi, diceva il Merenzano Paronzini. Grazie. E altre specialità della montagna. Certo, frutti di bosco. Grazie Rino, ciao. Niente. Ciao. Un bisbiglio tra i rami di querce invecchiate, il primo picnic con te, un po' isolati, perdona amore, ma resta qui. Vorrei sapere quanti di voi conoscevano questa versione di Your Song di Elton John cantata da Mia Martini. Il titolo è Picnic, ecco perché l'ho scelta, perché poi non parla proprio del picnic la canzone, però il titolo mi ha un po' traviato e poi ascoltare Mia Martini fa sempre piacere. Allora, abbiamo parlato di cibo, mi avete confermato una cosa che tutti sappiamo da sempre: al sud si mangia molto di più che al nord. Avete sentito, al sud ha portato questo signore a Napoli con cinque fratelli, hanno mangiato 30 kg di derrate alimentari in un solo pomeriggio, poi sono crollati e a tarda notte si sono rialzati e tornati a casa, mentre invece avete sentito il signore da Milano, ha preparato una cosa più chic con gli spiedini, poi naturalmente sono tornati a casa e hanno mangiato 30 kg di derrate che avevano nel frigorifero. Abbiamo finito anche oggi, bene, è stata una puntata appetitosa direi. Adesso ci prendiamo due giorni di riposo, sabato e domenica, torniamo lunedì con zampironi virtuali. Cosa sono gli zampironi virtuali? Sono quegli zampironi che accendiamo per cacciare i fastidi estivi, parleremo di cose che ci danno fastidio d'estate, a me praticamente tutto, vabbè, ma ve le dirò lunedì. Grazie a Franco Piantanida, che è stato in redazione, grazie a Mauro De Angeli, che è stato in regia. Noi ci sentiamo quindi lunedì, sempre con la bella estate. Ciao!